Toma prontita. Cosa siamo? Io non so cazzo. Vedo esseri sottonaturali. Questa sera l'approccio io. Non lo so. C'è qualcosa nell'aria stasera che non si può, non si può spiegare, a meno che non ritorni per forza a parlare ancora di te. E questo è l'approccio. Se tu fossi buona con me, Avenanzio, ti porterei la luna a letto con te. E non faccio ragazzi da niente questo qua. E questo è proprio il corno, eh! La fortuna. Per culo, ha capito? Quando c'è, aiuta sempre comunque gli audaci, e mica me. Io che c'ho paura, perfino che un giorno in testa mi caschi la luna, o di perdere te. Ammazza! Avenanzio, ma non te sbagli. E non ho paura, adesso che se guardi in alto c'è ancora la luna. Se guardi in alto c'è ancora la luna. Se guardi in alto c'è ancora la luna. Ma chi è sto guardone? E qui vicino a te. Io c'ho paura, chiamiamo guardia di 113 in ambulanza. Pesa tanto che tu lo devi andare cura 25. Ma che dice, amare fa? Ma guarda che festa speciale, eh? Gli dai 3 calzotti sul cazzo, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito? Ah, io aspetto, mi fa schifo. Io non sto piangendo, adesso no. Sto soltanto dicendo che ti amo. E che cazzo per me capì? Se guardi in alto c'è ancora la luna. E qui vicino a te. Se guardi in alto c'è ancora la luna. Ammazza, un metalisti di contare. Ma che te sei dormito? Ah, fanno qualche cosa? E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sto stanco. Chi caga sotto la neve pure si fa a buca e poi la copre. Quando la neve si scioglie, la merda viene sempre fuori.